Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Stiamo procedendo lentamente ma inesorabilmente verso una scadenza importante, l'addio definitivo del pagamento al contante appunto delle pensioni sopra i 1000 euro. L'INPS infatti le verserà in contanti fino al 6 marzo prossimo e tutti i pensionati con una pensione superiore a 1000 euro hanno ancora tempo fino al 29 febbraio per comunicare alla banca o all'ufficio postale se la scelta ricade su un intermediario piuttosto che l'altro, come ricevere appunto la propria pensione, conto corrente, libretto postale o carta prepagata. Sarà quindi a partire dal 7 marzo prossimo che il versamento delle pensioni cash non sarà dunque più possibile. Ricordatevi bene questa data. Questa novità, lo ricordiamo ancora, tanto per essere precisi anche con i termini di legge, è inserita nel corpo dell'articolo 12 del decreto Salva Italia. L'obiettivo della disposizione non è quello di ostacolare l'evasione fiscale, né il riciclaggio, né il terrorismo, ma di ridurre i costi posti a carico della pubblica amministrazione. Questo provvedimento, infatti, lo ricordiamo, riguarda non solo le pensioni, ma anche tutti i pagamenti della pubblica amministrazione centrale o locale. Tornando però alle pensioni, che è il tema sul quale faremo il nostro focus questa mattina, perché per tutto il resto, su tutte le novità e le misure per la lotta al contante, ci ritorneremo, ve lo ricordo già, ve lo anticipo già, lunedì prossimo, con la collaborazione di una guida specifica che esce con il Sole 24 Ore. Tornando alle pensioni, dicevo, si è trattato di una misura che ha avuto un impatto iniziale molto forte quando è stata comunicata, perché lo ricorderete, all'inizio il governo aveva ipotizzato lo stop al pagamento in contanti per le pensioni di importo superiore ai 500 euro, poi si è deciso di alzare la soglia e ora sono complessivamente 450.000-500.000 pensionati interessati da questa misura. Allora, come si stanno muovendo questi pensionati? Che tipo di intermediario hanno scelto per l'accredito della propria pensione? Conto corrente oppure il rapporto con la posta o un altro? Il tema è molto interessante perché interessa ovviamente anche l'offerta bancaria, che si è mossa non poco recentemente proprio per attrarre clientela, studiando dei prodotti ad hoc a costo zero, almeno per il primo anno di appunto rapporto con il pensionato. Poi però chiaramente a partire dal secondo anno, questo poi ve lo racconteremo nel corso della trasmissione, le banche faranno pagare il costo appunto per l'intrattenimento di questo rapporto con questo nuovo cliente. C'è anche da dire che però entro la fine di marzo devono essere comunicati i termini di una apposita convenzione tra Banca d'Italia, ABI e Poste per l'indicazione di un conto corrente di base da costi molto basi, per la verità l'auspicio era che fossero completamente azzerati, e che includa tutti i servizi di base appunto per agevolare le fasce più svantaggiate. Vedremo appunto che cosa succederà alla fine di quel mese, ma intanto oggi riaffrontiamo complessivamente tutta la questione intanto con Nicola Forte, consulente tributario in Roma, esperto del Sole 24 Ore, uno dei nostri esperti di riferimento su queste tematiche. Dottor Forte, buongiorno, bentornato. Buongiorno e saluti a tutti i radioascoltatori. Il settore Poste, Carolina Gianardi, responsabile privati e imprese di Banco Posta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie di essere ritornata, appunto di essersi rimessa a disposizione dei nostri ascoltatori. Più tardi ci collegheremo con Alberto Mazzetti, amministratore delegato di SOS Tariffe, al quale ho assegnato proprio un lavoro ieri e gli ho chiesto di farmi un piccolo monitoraggio sul comportamento delle banche in questo frangente, per capire se l'industria bancaria, visto che SOS Tariffe è un comparatore di tariffe, se avesse appunto complessivamente allestito prodotti nuovi per ospitare i pensionati che ora sono obbligati all'apertura di un conto corrente. Molti chiaramente di quelli che già percepivano una pensione su questo livello avevano già un conto corrente o un rapporto con la posta. Naturalmente noi oggi parliamo di coloro che invece percepivano in contanti la pensione e la utilizzavano completamente in contanti, quindi non avevano nessun tipo di passaggio con un intermediario. Quindi appunto sentiremo da Alberto Mazzetti le banche come si sono mosse. Per non fare torto a nessuna, oggi non ne ho chiamata nessuna, ma mi sono fatta fare un monitoraggio appunto da un soggetto assolutamente neutrale. Allora, per le vostre domande il numero è sempre lo stesso: L800240024 per intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Come sapete abbiamo anche un profilo Facebook dove per la verità animate non poco le conversazioni sui temi che poniamo alla vostra attenzione ed è salvadanaio-radio24. Diamo un'occhiata alla borsa prima di cominciare la nostra chiacchierata con i nostri ospiti di questa mattina. Allora, Milano gira in negativo, adesso perde lo 0,17%, era partita in maniera un po' più baldanzosa la giornata per Piazza Affari, addirittura con un rialzo di un punto, che era lo stesso che aveva registrato ieri in chiusura di seduta. Le altre piazze si mantengono positive con progressi di mezzo punto percentuale in media a Parigi e a Francoforte, Londra più 0,29%, adesso rallenta il passo anche l'euro sul dollaro che stamattina aveva superato 1,33, adesso è 1,3275. Che succede? Che naturalmente si guarda anche con apprensione, ma comunque con un atteggiamento almeno fino a pochi minuti fa che sembrava piuttosto positivo, all'evoluzione dei negoziati per il salvataggio della Grecia. E quindi ancora una volta bisogna capire quanti sacrifici la Grecia è disposta a fare per ottenere un nuovo pacchetto di aiuti per rimborsare le prossime scadenze appunto del debito pubblico. C'è una tranche molto importante che scade a fine marzo e addirittura già quella tranche potrebbe non essere in grado di essere rimborsata da parte dello Stato greco, per cui ore cruciali, ore centrali, e vedremo come finiranno appunto queste trattative estenuanti tra il governo e la famosa Troica, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, Banca Centrale Europea. A proposito di Banca Centrale Europea, oggi si riunisce, decide sui tassi che probabilmente rimarranno invariati all'1% nell'Eurozona e poi attesa come sempre per la conferenza stampa di Mario Draghi, il governatore della BCE, conferenza stampa fissata come sempre per le 14.30. Rapidamente sono i migliori titoli di oggi: Fiat più 2,21, Salvatore Ferragamo più 2,19, Buzzi Unicem più 1,72, Azimut più 1,46, Toz più 1,46%. Stamane erano partite di nuovo piuttosto bene tutte le banche, adesso qualcuna invece frena e arrivano le inesorabili prese di profitto dopo giornate di rialzi molto forti. Monte dei Paschi è quella che frena di più, meno 4,79%. Ci sono alcune indiscrezioni di stampa che danno in arrivo la Sator di Matteo Arpe in trattative per acquistare la quota della banca detenuta dalla Fondazione Banca Monte dei Paschi. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera, ma chiaramente non arriva nessun tipo di commento su questa notizia. In pregiro meno 2,52 A2A, si dimette il presidente Giuliano Zuccoli dalla Multi Utility appunto Lombarda, meno 2,34% per il gruppo di Assorin, meno 1,65, Banca Popolare di Milano meno 1,58. Direi di lasciare la borsa, lo spread è intorno ai 360 punti stamattina, ma lasciamo subito la borsa e andiamo al tema di oggi, e comincerei ad affrontarlo con il nostro Nicola Forte per rifare un po' un quadro complessivo della situazione. Come ripeto, tutto il tema legato alla lotta al contante lo rifaremo lunedì prossimo con la collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore. Oggi ci focalizziamo sul tema delle pensioni: oltre 1000 euro non potranno essere più pagate in contanti, e questo a partire dal 7 marzo, dottor Forte. Però c'è già questa incongruenza che io noto, nel senso che solo entro la fine di marzo sapremo se le banche e le poste si sono messe d'accordo con il Ministero dell'Economia per studiare un pacchetto di servizi appositi per i pensionati che devono aprire appunto necessariamente o un conto corrente o un libretto di risparmio. Come mai c'è questa incongruenza per l'appunto? È perché il decreto legge è partito male, nel senso che nella prima versione, cioè quando è entrato immediatamente in vigore il 6 dicembre, non si comprendeva neppure da quale data l'INPS dovesse iniziare a pagare le pensioni attraverso appunto strumenti diversi dal contante. Poi il decreto è stato migliorato, si è fatto riferimento appunto a 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, quindi dal 6 dicembre si è arrivati al 6 marzo, e quindi questo spiega il perfetto adeguamento dell'INPS, che ha annunciato con un messaggio che il pagamento avverrà con strumenti diversi dal 7 marzo, ma questa incongruenza è rimasta nella versione finale. Probabilmente si è voluto stabilire un termine sufficientemente ampio, perché c'era la preoccupazione di non arrivare nei termini con una convenzione, però questa situazione indubbiamente penalizza i pensionati, perché l'INPS ha chiarito che perché tutta la macchina si mette in moto dal 7 marzo, dice entro fine febbraio l'INPS stesso vuole sapere dove accreditare le somme. Infatti. Allora, vado subito alle poste, alla dottoressa Carolina Giannardi, ma vi dico già che ci sono delle domande pronte da parte di alcuni ascoltatori. Perché nei 14.000 uffici di poste italiane si pagano ogni mese qualcosa come 6 milioni di pensioni, dottoressa Giannardi mi dica poi se sbaglio le cifre, di cui quasi 2 milioni e mezzo ancora in contanti. C'è stato però credo un travaso abbastanza consistente già di appunto pensioni su strumenti alternativi al contanti attivati proprio presso poste italiane. Che cosa è successo in queste prime settimane dell'anno, diciamo così, quindi non possiamo ancora dire 2 mesi? Ma guardi, se confrontiamo un po' quella che era una fotografia di novembre, un mese diciamo standard antecedente alla nuova normativa, e guardiamo poi quello che è successo a febbraio per quel che riguarda le pensioni pagate in contante presso gli uffici postali, complessivamente c'è già stata una prima contrazione del 20%, cioè il 20% in meno di pensioni sono state pagate in contante. È chiaro che c'è della stagionalità, però la cifra, essendo così elevata, dà già un'indicazione che sono aumentate le soluzioni di accredito. In particolare, se guardiamo le pensioni sopra i 1.000 euro, che sono quelle impattate dalla nuova normativa, qui la contrazione è stata addirittura del 40%, quindi vuol dire che i pensionati si sono già attivati fra fine dicembre e il mese di gennaio per scegliere su quale strumento finanziario farsi accreditare la pensione che precedentemente percepivano in contanti. È possibile tradurre queste percentuali, dottoressa Giannardi, in valori assoluti? Leggevo su un pezzo di una collega del Sole 24 Ore sabato scorso che i conti correnti attivati dall'inizio a gennaio presso le poste appunto sono stati circa 80.000. È possibile? No. Sì, allora diciamo che è evidente che il pensionato poteva scegliere fra strumenti finanziari di Poste Italiane piuttosto che strumenti bancari. Noi abbiamo avuto sicuramente nel mese di gennaio, lato i conti correnti e lato libretti, un fenomeno di aumento significativo delle aperture che immaginiamo poi da qui al 6 di marzo si tradurranno anche in un aumento degli accrediti che ovviamente ad oggi, proprio per limiti temporali, non si sono ancora verificati. Quindi avete avuto al momento l'attivazione di questi strumenti, ma non ancora necessariamente gli accrediti. Esatto, perché non primo tutti del mese. Per tecnicismi, ovviamente per il momento in cui lo strumento è stato aperto e quando poi tecnicamente il primo accredito potrà essere effettuato. Però sicuramente ci sono segnali forti che i pensionati si sono messi in moto. Più libretti o più conti banco posta? Ma sicuramente più libretti, perché è uno strumento più consono al target ed è uno strumento che di per sé nativamente nasce a costi zero, quindi è la scelta, come dire, probabilmente più immediata per chi non ha esigenze finanziarie più evolute. Allora, io direi di cominciare subito ad animare abbiamo sentito dunque l'offerta della posta, poi vi parleremo anche delle banche, naturalmente. Vorrei sentire però subito, visto che con Nicola Forte volevo esplorare anche il campo degli aspetti non chiariti dalla norma, volevo sentire un po' di quali chiarimenti hanno necessità i nostri ascoltatori, cominciando con Stefano da Pistoia, di cui sento subito la domanda, poi forse non riusciamo a rispondergli subito, risponderemo nella seconda parte della trasmissione. Stefano, buongiorno. Buongiorno Deborah e complimenti. Grazie. Per la trasmissione. Senta, allora io parlo per mia suocera, una signora che prende una pensione di 800 euro al mese, quindi dovrebbe essere fuori diciamo da questo contesto, insomma, di fare il libretto o di aprire un rapporto con la banca, un conto corrente, certo, di farsela accreditare su uno strumento diverso dal contante. Perfetto, però niente, perché il fatto che a dicembre prende il mese doppio e passa ai 1.000 euro il mese, allora gli ha detto no, niente, lei deve fare il libretto forzatamente, insomma. In tutti i modi deve fare il libretto, se no non può riscuotere la pensione. Allora a questo punto anche chi prende 501 euro il mese di pensione è costretto Questo io non me ne ricordo, ma credo che non è mai stato specificato. Esattamente. Stefano, guardi, le racconto un aneddoto del nostro privato. Io questa mattina chiaramente mi sento sempre con gli ospiti prima di andare in diretta, e a Nicola Forte ho scritto una mail. Caro Nicola, alle ore 10.52, ma come è finita la questione della tredicesima nel caso di una pensione inferiore a 1.000 euro che non ha la necessità di ottemperare la nuova norma, ma che in dicembre teoricamente si trova, come dire, passatemi il termine, fuori legge? Allora, eccoci di nuovo insieme, ve lo ricordo ancora, a partire dalla pensione di marzo questa non potrà essere più percepita cash in contante da parte di almeno 450.000 pensionati che sono quelli interessati da questa misura, perché sono quelli che percepiscono una pensione superiore ai 1.000 euro e che fino a questo momento appunto la percepivano solo in contante, non avevano un canale alternativo per incassare l'assegno previdenziale. Adesso invece devono necessariamente scegliere o un conto corrente o un libretto postale o uno strumento telematico di pagamento come la carta ricaricabile. C'è grande fermento, appunto grande scelta soprattutto degli strumenti postali, in particolar modo lo dicevamo prima del libretto postale ordinario, perché è senza spese di apertura e gestione. Poi c'è tutto l'ambito invece dell'offerta bancaria, che ha in questo momento una dinamica diversa, ma noi stiamo parlando di un altro problema anche di coloro che invece hanno una pensione che è sotto questa cifra, ammettiamo di 800 euro, ma che rischiano di diventare solo per un mese l'anno teoricamente fuori legge, perché nella pratica con l'accredito della pensione che viene fatta in un unico pagamento in dicembre superano questa soglia. Allora Nicola Forte, visto che questa mattina le avevo fatto la domanda in segreto dei nostri ascoltatori per capire, visto che non è che ce la poniamo per la prima volta stamattina, com'è finita questa questione? Non credo che dal governo sia arrivato alcun chiarimento. Nicola Forte, sì, eccoci qua. Nessun chiarimento, anzi il problema esiste sostanzialmente per i pensionati, perché diversamente dai lavoratori dipendenti, dove la tredicesima poi è erogata circa la metà del mese di dicembre, la retribuzione ordinaria alla fine del mese, per i pensionati c'è questo effetto cumulo che le penalizza, nel senso che si supererà magari solo per una volta l'anno la famosa soglia di 1.000 euro. E allora che cosa succede in concreto? Che se io non comunico nulla all'INPS dal 7 marzo in poi posso continuare a riscuotere la pensione ordinaria sotto 1.000 euro in contanti, quando arriva a dicembre rischio il blocco del pagamento. Quale può essere una soluzione? Una soluzione, secondo me, tra i vari prodotti che sono stati presentati può essere effettivamente quella della IMSS Card, cioè una carta elettronica, perché in realtà il passaggio che in concreto viene posto in essere, il passaggio aggiuntivo, è solo uno, perché questa carta elettronica su cui viene accreditata la pensione comunque consente al pensionato di recarsi presso qualsiasi ufficio postale o presso l'ufficio postale di riferimento ed effettuare, scaricare la carta, effettuare un prelievo a costi zero. Quindi rispetto a oggi mi reco presso l'ufficio e mi viene pagata direttamente in contanti la pensione. Con la IMSS Card la pensione viene accreditata su questa carta ricaricabile, che poi può essere utilizzata anche presso esercizi convenzionati, ma in alternativa posso andare presso lo stesso ufficio e dopo che ci sarà stato questo primo passaggio posso materialmente prelevare di nuovo e quindi avere disponibilità di contanti. Peraltro lo strumento della IMSS Card non è uno strumento che nasce in questo frangente per ottemperare a questa norma, esisteva già, ma diciamo che è stata poco pubblicizzata, poco reclamizzata e forse adesso potrebbe essere resuscitata e darle una discreta dignità proprio per risolvere anche molti dei problemi dei quali stiamo parlando questa mattina. Dottoressa Gianardi, è possibile aprirla anche in posta oppure bisogna rivolgersi esclusivamente all'INPS? No, si fa la richiesta presso un ufficio postale, la carta poi viene spedita a casa e una volta che arriva la carta per l'attivazione ci si ripresenta in ufficio postale. Anche questo, diciamo, è uno degli strumenti a disposizione e anche questo è uno strumento a costo zero. C'è stato un numero interessante di pensionati che ha scelto questo canale per l'accredito della pensione o comunque rivolgendosi alle poste hanno preferito utilizzare i tradizionali strumenti postali, quindi ribadisco, il libretto postale piuttosto che un conto banco posta. Certo. Allora, diciamo che questo è uno strumento che storicamente è stato utilizzato poco e anche in questo periodo non è stato sicuramente lo strumento principale a cui i pensionati si sono indirizzati, forse perché trattandosi magari di una carta viene percepito come strumento meno familiare, però è di fatto a disposizione così come i libretti, così come i conti correnti. Prima di sentire Alberto Mazzetti, che però intanto saluto, Alberto buongiorno, bentornato a Salvadanaio, buona giornata. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Faremo il monitoraggio sui conti correnti bancari. Volevo sentire la domanda di Gabriele da Torino, a cui daremo risposta ancora con Nicola Forte. Gabriele, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica tutto. Dunque, io percepisco una pensione che supera il 1.280 circa. Sì. Però supera i 1.000 euro. Sì, è sopra i 1.000 euro ovviamente. Però io ho una trattenuta mensile decennale di un finanziamento di 250 euro. Che cos'è un quinto, come si chiama lì? Esatto, il quinto della pensione. Esatto, ecco. Sì. E praticamente la cessione del quinto, ecco. Sì, la cessione del quinto. Io praticamente per la fine mese, cioè alla pensione non la percepisco 1.000, un po' di meno. E certo, 1.200 qualcosa, se è 2.50 lei va a 9.50. Arrivo 9.60, ecco. 9.70. Stando in questi limiti qui, io posso continuare a prendere la pensione in contanti, vero? Gabriele, io temo di no, Nicola Forte. Ma io sarei possibilista, perché la norma dice gli eventuali pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di 1.000 euro. Qui c'è un prelievo alla fonte e quindi... Facciamo riferimento al netto, in sostanza, al flusso che deve essere tracciato, altrimenti ecco, quello è il punto di riferimento oggettivo, certo, anche diciamo l'esperienza di norme non analoghe ma sostanzialmente similari, si è sempre fatto riferimento all'importo netto, cioè effettivamente pagato. Certo, però insomma è un problema che magari oltre a Gabriele potrebbe riguardare in questo momento molti altri pensionati nelle medesime condizioni, peraltro proprio una differenza anche di 30-40 euro, però di fatto questo prelievo alla fonte pone questa pensione al di sotto del tetto limite. Volevo sentire un attimo la dottoressa Carolina Gianardi, appunto delle Poste Italiane. Voi in questo periodo come vi siete comportati con i vostri impiegati? Li avete anche dovuti istruire molto dettagliatamente su queste nuove norme? Insomma, in che difficoltà si sono trovati, dottoressa? Perché adesso così penso magari ad una persona come Gabriele che va alla posta, dice guardi mi sto informando, ho però questa situazione, come faccio a risolverla? Allora, ovviamente non siamo potuti entrare nello specifico di ogni singolo caso, avendo così tanti uffici postali abbiamo dato delle indicazioni generali, quindi abbiamo esposto avvisi presso gli uffici postali e soprattutto in occasione dei pagamenti delle pensioni della seconda metà di dicembre, quando la norma era già uscita, e quelle di gennaio, al momento del pagamento della pensione, abbiamo dato l'informativa ai pensionati. È evidente che il nostro personale, proprio perché ci sono anche alcuni ambiti che non sono stati esplicitamente chiariti dalla normativa, non può entrare nello specifico, come la domanda dell'ultimo ascoltatore. Ecco, quindi ci può anche stare che l'indicazione del nostro diciamo operatore al pensionato sia di fare un accredito nel tentativo di risolvere un eventuale problema quando non si ha la certezza se quel problema sarà effettivo o meno. Tra l'altro volevo fare un'altra domanda a Nicola Forte, chiedo ancora un minutino ad Alberto Mazzetti. Qualora entro il tempo limite che abbiamo indicato prima, entro la fine di febbraio, le persone che ancora percepiscono la pensione in contanti ma che devono trovare uno strumento appunto alternativo, qualora non lo comunicassero, che cosa rischiano all'inizio del mese? Di non poter ritirare la pensione qualora andassero in banca o in posta con diciamo la convinzione di poterla ritirare con le consuete modalità di sempre? Direi il rischio concreto è il blocco del pagamento. Chiaramente il problema poi potrà essere subito dopo chiarito, comunicando il ritardo, gli estremi di pagamento, intrattenendo un rapporto con la propria sede regionale, locale dell'INPS, in modo sia pure ex post dopo ottenere l'accredito della pensione. Però è chiaro che se non rispetto quella scadenza, l'effetto immediato è che il 7 marzo non riceverò la pensione. Ci potrebbe essere il concreto rischio che, risolto il problema, non mi venga poi immediatamente effettuato l'accredito, perché chiaramente ci sono delle disposizioni, delle procedure che seguono un determinato iter, quindi c'è il concreto rischio che si vada alla mensilità successiva. Forte, un ascoltatore ci scrive: mia zia è inabile al 100%, ci scrive a Salvadanaio chiocciola Radio 24, come faccio ad aprirle un conto corrente per il versamento della pensione che evidentemente supera questa soglia? Devo per forza fare una procura generale, evidentemente a mio nome, con un notaio, con i costi connessi, oppure ci sono delle modalità più semplici, magari meno onerose in casi delicati come questo? La procura generale è un atto poi molto delicato e particolarmente ampio, e il soggetto che ha procura non solo può aprire un conto corrente, ma può fare di tutto, quindi ci sono valutazioni. Non la si concede così. Quindi ci sono valutazioni anche di altro genere che entrano in ballo rispetto alla risoluzione di un problema che secondo me può essere più semplice. Diciamo che forse il consiglio pratico che mi sento di dare è che prendere immediatamente contatto con l'istituto di credito, magari dove il figlio ha già un conto corrente aperto in qualche modo, e quindi interfacciarsi con il funzionario di turno per comprendere anche proprio sotto il profilo burocratico la banca che cosa esige per aprire certo un conto corrente. Il nipote in questo caso, perché qui parlavamo appunto proprio di una zia, no, ma non c'è problema. Allora, molte banche hanno lanciato conti correnti nuovi al servizio dei pensionati che appunto percependo una pensione superiore a 1000 euro, che fino a questo momento erano andati a prelevarla in posta o in banca in contanti senza appunto questo obbligo che invece adesso vige di aprire un rapporto con questo intermediario finanziario, quindi conti correnti nuovi al servizio di questi pensionati. La questione è che sono tutte iniziative promozionali, quindi a costo zero solamente per il primo anno, e poi si parte con l'attivazione di un canone a partire dall'anno successivo di apertura di questo rapporto. Alberto Mazzetti, SOS Tariff, appunto, che cosa hai avuto modo di individuare in termini di offerta per i pensionati nel monitoraggio che io prima ho raccontato all'inizio trasmissione, ti ho sostanzialmente commissionato ieri pomeriggio? Ci sono state delle novità che si sono legate appunto all'emanazione di questa norma, perché comunque molte banche avevano già dei servizi appositi appunto per la categoria over 60, over 65, quindi pensionati. Che cosa è cambiato di recente? Ma sicuramente si è ampliata l'offerta delle banche nei confronti di questa categoria. Come hai anticipato tu precedentemente, molte banche al momento offrono un'offerta a zero per il primo anno, comunque per i primi due anni, con operatività illimitata o comunque con un plafond di operazioni che consentono appunto di effettuare le operazioni di base, e poi a seguito della scadenza di questo periodo si può partire con l'applicazione di un canone mensile per il conto corrente piuttosto che il pagamento delle operazioni effettuate, e nel caso in cui si richieda la carta di credito anche il pagamento del canone da parte della carta di credito. Quello che c'è da sapere è che moltissime banche già prima di questa manovra Monti offrivano per chi accredita lo stipendio, la pensione, un azzeramento del canone. In alcuni casi questo azzeramento dipende anche ad esempio dalla giacenza minima che si ha sul conto corrente. Quindi il consiglio che do a tutti gli utenti interessati in questo momento nella scelta di un conto corrente è quello di guardare questo genere di opzione, no? Quindi l'azzeramento del canone in caso di accreditamento della pensione, piuttosto che ad esempio sulla carta di credito. Molte volte succede che con l'utilizzo della carta per un determinato importo annuo, in genere dai 2.500 ai 3.000 euro l'anno della carta di credito, c'è l'azzeramento anche del canone della carta di credito. Allora, stavo intanto controllando le domande che ci stanno arrivando da parte dei molti ascoltatori, e molte si riferiscono ancora al problema principe che abbiamo posto dall'inizio della trasmissione, ma anche in altre trasmissioni dedicate a questo argomento, il tema della tredicesima, appunto, per un lavoratore dipendente, perché tra l'altro la questione si riferisce anche all'accredito dello stipendio, e poi questo lo affronteremo lunedì prossimo. La questione è che però se uno prende uno stipendio di importo superiore a 1000 euro, e quindi fino adesso l'ha percepito in contanti, e da adesso deve appunto obbligatoriamente aprire un rapporto di conto con le Poste piuttosto che in una banca, no, dicevo, se la cifra è inferiore e quindi il superamento dei 1.000 euro scatta solo a dicembre con l'arrivo della tredicesima, e il problema per un lavoratore non si pone perché praticamente gli accrediti sono due differenti. Il premio è solamente per i pensionati. Nicola Forte, mi conforti se può, perché appunto solo per i pensionati l'accredito è unico in dicembre. Assolutamente sì, nel senso che, come anticipato, il lavoratore dipendente percepisce la tredicesima mensilità tra il 15 e il 20 dicembre, grosso modo come date indicative, mentre a fine mese percepisce la retribuzione di dicembre. Questo non è un frazionamento di un'operazione, cioè proprio nella consuetudine, nelle regole, nella disciplina del rapporto tra il datore di lavoro e del lavoratore dipendente, quindi non è un frazionamento, una suddivisione del pagamento effettuata allo scopo di eludere la norma, perché poi non dobbiamo dimenticare che queste regole che hanno introdotto queste limitazioni per il pagamento delle pensioni hanno finalità di risparmio costi per la pubblica amministrazione. Mentre le altre regole sono regole in materia di antiriciclaggio in generale, il tema di che verrà affrontato, se ho ben capito, lunedì prossimo. Dottoressa Giannardi, torno alle Poste, visto che abbiamo detto che le banche stanno attivando iniziative promozionali in questo momento per attirare chiaramente i pensionati con conti correnti nuovi che saranno a costo gratuito solo però per un anno, forse anche per il Banco Posta c'è un'iniziativa di questo tipo, nel senso che, se non ho capito male, anche voi avete un'offerta gratuita del conto Banco Posta più per tutto il 2012 per gli over 65, poi però si inizia a pagare. Di quanto sarà l'onere? Ma allora, se si scegliesse, diciamo, questo, ovviamente, se il pensionato sceglie questa modalità. Certo, noi avevamo questa promozione in essere già da luglio 2011 e fondamentalmente per chi accredita la pensione successivamente all'accredito per tutto il 2012 il conto corrente sarà gratuito. Di fatto è il nostro conto corrente standard, quindi non è un'offerta, diciamo, studiata appositamente per questo in termini di operatività, ma assolutamente con operazioni illimitate, con i prelievi gratuiti. Quello che succederà nell'attesa comunque poi dello sviluppo di questo conto base che stiamo aspettando è che in teoria dal 2013, se non facciamo alcun intervento, le spese annue saranno 30,99, così come è il costo standard del nostro conto corrente postale, quindi comunque un canone contenuto. È evidente che comunque delle riflessioni dovranno essere fatte anche in funzione del lancio del nuovo conto base previsto dalla nuova normativa. E certo, infatti, questo lo sapremo solamente a fine marzo. Rapidamente, esatto. Adesso tutti gli ascoltatori che erano pronti ad intervenire, mi serviva Amos da Roma, perché mi pare di aver capito che ha la INPS Card da molto tempo e invece in molti la scoprono solo oggi. Amos, buongiorno. Anche noi, per la verità, l'abbiamo scoperta da poco. Buongiorno, senta, io ho la INPS Card oramai da 4 anni, credo, più o meno, e praticamente con tutte le persone con cui ho parlato non ce n'è stata una che ne fosse a conoscenza. È vero, ma guardiamo, che anche noi l'abbiamo scoperta adesso facendo le trasmissioni su questo tema, e ho scoperto che l'INPS la in realtà distribuisce da molti anni. Come ha fatto ad attivarla, Amos, anche se c'era da 4 anni? È andato in posta, ha chiesto all'INPS, cosa ha fatto? Sono andato alla posta, mi hanno detto che dovevo comunicare all'INPS che praticamente volevo usufruire di questo servizio. Io ho comunicato dando la posta di riferimento e a questo punto qua poi mi è arrivata questa carta a casa. Certo. Perciò tutte le operazioni, cioè, è limitata perché nella realtà non si può fare online, però non pago niente. Infatti, però, insomma, adesso risolverebbe molti problemi se ce l'avessero un po' più di persone che hanno così paura di aprire un conto, di aprire un libretto di risparmio o d'altro. Amos, grazie per la sua testimonianza. Vorrei andare di corsa a Maurizio da Prato. Maurizio, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, grazie. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. La mia domanda è tecnica. Io prendo 300 euro, ho soltanto il problema della tredicesima, li spendo tutti ovviamente perché con 300 euro si fa presto a spenderli. Chiedevo, si parla di mezzi alternativi, non potrebbe essere un assegno circolare richiesto sin d'ora alle Poste? Nicola Forte. Scusa, ho sentito, c'era un'interferenza, non ho ben sentito la domanda. Allora, Maurizio, la ribadiamo, cioè no, gliela rifaccio io, nel senso che lui ancora una volta supera la soglia solamente con la tredicesima di dicembre e chiede appunto se è possibile che l'INPS gli versi la pensione attraverso un assegno circolare. È stata studiata questa modalità? Ma ho delle perplessità, nel senso che nella comunicazione che fino ad oggi ha fornito l'INPS con un messaggio del 30 dicembre, l'INPS indicava chiaramente come modalità di pagamento, perlomeno in questa fase, esclusivamente il conto corrente, la carta ricaricabile e il libretto. Quindi direi che in mancanza di chiarimenti da parte dell'INPS in questa fase, direi che non è possibile, salvo che l'istituto stesso non torni sui suoi passi. C'è solamente un'ultima riflessione, voleva farla Paolo da Roma, la leggo io Paolo perché sto salutando, mi mancano 20 secondi, e si chiede: ma perché lui ha 36 anni? Gli anziani non condividono questo provvedimento, quindi non ne sono felici invece di andare a fare l'inutile coda alle poste e andare a ritirare in contanti la pensione rischiando il furto, la rapina e quant'altro, Paolo, perché le persone anziane hanno ovviamente, e con tutto rispetto lo diciamo anche, questo limite. Se uno non è mai stato abituato appunto ad avere una relazione con la banca, aprirlo adesso a 65-70 anni diventa un po' più complicato emotivamente, questo noi lo possiamo capire, e speriamo però che tutti lo superino con serenità questo problema. Vi saluto, ci sentiamo domani, buona giornata.